La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua amici, ben ritrovati alla Rosa Purpurea in questa versione estiva ricca, ricchissima, non solo di tutta l'attualità cinematografica ma anche di grandi ospiti, grandi nomi del cinema italiano e internazionale che di settimana in settimana ci raccontano un po' il loro rapporto con la settima arte e anche un po' quello che è stato il loro percorso. Oggi è con noi un regista di grande capacità, di grande sensibilità, un regista che lo sa, siamo amici, apprezzo molto e che però si centellina abbastanza, quindi soprattutto sul grande schermo, insomma un film ogni 2, 3, 4 anni, come dire, senza invadere più di tanto, anche perché magari ce lo dirà lui fra poco, in Italia non è semplice girarne di più di così. Però Alessandro Dalatri è con noi e io lo saluto. Ciao Alessandro. Ciao Franco. Allora, è per quello che tu fai un film ogni 4 anni? Guarda, perché me li fanno fare ogni 4 anni. No, cioè, riuscire a fare cinema di qualità, insomma, non è facile. Ogni volta ti trovi davanti, come dire, alle scelte, no? E se fare scelte furbe, ne fai quanti ne vuoi di film, no? Fare film un pochino più complessi diventa più complicato. No, anche perché tu, tra l'altro, adesso poi lo diremo durante il nostro incontro, hai, come dire, invece di cavalcare, hai anticipato i tempi con alcuni tuoi film. Mi viene in mente, per esempio, che un film come Commedia Sexy, oggi come oggi, farebbe forse 30 milioni di euro di incasso, no? Vabbè, il problema di essere avanti, no? Allora, io voglio anche spiegare un po' che Alessandro Dalatri, al di là di aver firmato film amabili come Americano Rosso, come Casomai, appunto Commedia Sexy, La Febbre, insomma è diventato l'autore di cult anche generazionali, ha lavorato spesso con attori, più volte con gli stessi attori, è però nato come grande regista di pubblicità, di clip, insomma ci sono delle pubblicità, Alessandro, che sono nella memoria di tutti noi. Penso a Ciribiribi Kodak piuttosto che al telefono che allunga la vita di Massimo Lopez, ecco, che portano la firma di Alessandro Dalatri. Quanto devi a quel mondo, a quel tuo periodo? Ma devo moltissimo, perché la pubblicità è stata per me una vera università, una vera accademia. Quando io, verso la fine degli anni 70, decisi di passare da davanti a dietro la macchina da presa, era molto difficile perché c'erano tutti i figli dei registi o degli attori di quell'epoca che chiaramente facevano gli aiuti. Era molto difficile. Il centro sperimentale in quel periodo era chiuso per un breve periodo, è stato chiuso in quegli anni, neanche era percorribile la scuola come percorso. Mentre la pubblicità, che era quella ancora di Carosello, perché stavamo nel passaggio tra Carosello e gli anni 70, fu per me la grande occasione, cioè fu l'opportunità per poter misurarmi con gli stessi linguaggi del cinema, cioè le stesse macchine da presa, gli stessi tecnici, come dire, le stesse maestranze, però nello stesso tempo lavorare invece sulla sintesi. E per me è stata un'esperienza straordinaria, molto divertente, molto bella, anche poi, tra l'altro, voglio dire, ho dovuto anche scontarlo un po' quando poi ho cercato di fare cinema, perché il pregiudizio nei confronti di quelli che facevano venivano la pubblicità era molto forte. Il ricco e il bello sarà, ma almeno me lo leva nessuno dalla testa che quello non è un finocchio. Non lo è, non lo è. Ti dico che non lo è. Ma tu non lo sai davvero e si sente da come balli? Ah sì? Già. Vuoi fare una gita ormai? E con chi? Con te o con lui? Scegli tu, dai. E allora avete forse riconosciuto Sabrina Ferilli e Fabrizio Bentivoglio. Questo era Americano Rosso, l'esordio alla regia di Alessandro Dalatri, alla regia di un lungometraggio di finzione. Cosa fece scattare la molla, Alessandro, di quel film e perché hai scelto quella storia? Ma guarda, in quegli anni era molto difficile fare cinema in Italia, lo è sempre stato, ma in quegli anni particolarmente. proprio perché il pubblico veniva da un percorso di, diciamo, delusione rispetto a un prodotto cinematografico che era quello dei fine anni 70 e primi anni 80. In più i debutti erano quasi sempre, diciamo, autobiografici, erano sempre storie che parlavano di se stessi, eccetera. L'idea di debuttare cinematograficamente con un film che fosse ambientato negli anni 30, estratto da un romanzo, che era il romanzo di Gino Pugnetti, tra l'altro autore considerato minore, ma molto interessante sul piano proprio narrativo, ho detto, ma perché no? Perché no? Perché non andare in controtendenza? No? E questa è stata l'esperienza che mi ha portato a fare Americano Rosso. Il produttore era Sandro Parenzo, che aveva i diritti di questo romanzo. L'idea degli anni 30 mi piaceva moltissimo perché in qualche modo li avevo vissuti, perché quando ero un giovane attore, all'età di 13 anni, partecipai al Giardino dei Finzi Contini di De Sica. In qualche modo avevo respirato quelle atmosfere, a Ferrara eravamo a Girardelli, mi ricordo, cioè questi ambienti, i costumi, i pantaloni alla Zuava, le musiche dell'epoca. E quando ho cominciato a pensarci da regista, mi ritornavano costantemente alla mente quelle immagini, quel mondo, quei trattamenti. In più era una bella scommessa, perché era una commedia con un finale noir, era una cosa abbastanza anomala per il percorso, diciamo, del cinema italiano di quegli anni. Ciao. Beh, sembra che vada bene, no? Sì, va bene. Lo vedi che basta cominciare? Sì. Urbano dice che sei bravo. Gina, ti devo dire una cosa. Sì? Io non ho mai baciato una donna. Gina, dammi un bacio. Ti prego. Ti prego. E sulle note che accompagnano il bacio fra Kirossi Stewart e Anna Galliena in Senza Pelle, opera seconda, 4 anni dopo, come da prassi per Alessandro D'Alatri. Alessandro, Kirossi Stewart, una tua forse scoperta al cinema, una tua semi-scoperta, sei stato sicuramente fra i primi a utilizzarlo e a utilizzarlo anche molto e molto spesso. Dopo parleremo del rapporto simbiotico che hai con alcuni attori, ma cosa ha rappresentato per te l'incontro con Kim e che tipo di attore è? Ma Kim è un attore straordinario. Io mi ricordo quando lo scelsi, capì che era lui che doveva fare il ruolo di Saverio, dovetti combattere non poco, perché sia la distribuzione che i produttori stessi, che i coproduttori lo bollavano col pregiudizio bello e non bravo, no? Kim veniva da un eroe del piccolo schermo e il pregiudizio, come al solito, lo colpiva. Io riuscii a convincere tutti quanti dicendo, gli faccio un provino, poi dopo il provino potete decidere, perché a me le cose, i pregiudizi non piacciono. Kim fece un provino straordinario, veramente un'intensità incredibile, tanto che sia i produttori che i distributori dissero, va bene, ma a questo punto ci hai convinto. E così nacque questo sodalizio. Sodalizio che è stato importantissimo, perché Kim, e poi l'ho dimostrato nel corso degli anni, la carriera, non solo come attore ma anche come regista, è un ragazzo di una serietà incredibile, cioè una, come dire, una dedizione, una passione del lavoro che raramente si trova, insomma, ha quella marcia in più che infatti gli ha consentito di diventare forse uno degli attori più importanti nel nuovo panorama italiano. Viaggiai a lungo, ho visto città e genti lontane, templi pagani ricoperti d'oro, caravanserragli, uomini saggi, uomini stolti. Molti erano gli dèi e molte le preghiere recitate in lingue sconosciute. Ma ne comprendevo il fervore. Dio si manifesta all'uomo sotto svariate forme, ma la sua essenza è sempre la stessa, sotto ogni cielo. Più più conoscevo il mondo e più mi perdevo nella sua vastità. Il ruolo dei ruoli per Kinross e Stewart nei Giardini dell'Eden. Alessandro, perché a un certo punto hai sentito l'esigenza in questo film di raccontare questa storia con la S maiuscola, insomma, una storia di Gesù? Ma perché io per primo mi ero posto delle domande a cui non avevo mai fatto riferimento, nel senso, quando in quel periodo mi erano nate le mie bambine, avevo due figlie, e mi ero posto la domanda di dire cosa gli spiegherò rispetto all'intangibile, rispetto allo spirito, quando saranno nel corso della loro educazione, no? Cosa gli insegnerò, cosa gli dirò? E ponendomi questa domanda mi rendevo conto che io stesso non ero il primo a essere impreparato, perché pur essendo stato, come dire, battezzato, cresimato, fatto la comunione, fatto un'ora di religione a settimana per tutta la mia esperienza scolastica, purtroppo mi sono reso conto che, come tutti gli altri, quando si pongono davanti a questa domanda, io non sapevo nulla della mia religione, di quello che, diciamo, pregna poi in realtà tutta la civiltà che mi circonda. 2000 anni di storia, per noi italiani sono 2000 anni di storia di rapporti con il cattolicesimo e col cristianesimo. E quindi è cominciata questa avventura straordinaria, ho ripreso quel libro che mi avevano regalato quando ho fatto la comunione, che non avevo mai letto in vita mia, che era la Bibbia e il Vangelo, me lo sono letto conseguenzialmente tutto, ho scoperto che era un viaggio interessante, era un viaggio molto bello. In più scoprire che di Gesù non sappiamo assolutamente, veramente poco, quasi niente, cioè noi conosciamo sia noi 3/10 della sua vita, nel senso che conosciamo quei pochi passaggi della sua nascita, 2-3 giorni nel periodo della Pasqua quando ha 12 anni e poi 3 anni finali della sua vita. Quindi mi sembra abbastanza poco per dire che quel personaggio è così importante per noi. Capire che cosa fosse accaduto in quell'esperienza mi ha portato a costruire questo progetto. Kim, parlavo con lui, anche lui era molto affascinato. L'idea di rappresentare invece i 9/10 della vita di Gesù, no? Cioè quella parte in più che non era conosciuta, ci ha convinto a continuare questa esperienza di lavoro assieme. La Rosa Purpurea. Siamo ancora qua con Alessandro Dalatri in questa intervista della Rosa Purpurea. Abbiamo parlato degli inizi, dei primi film di Senza Pelle, di Americano Rosso, di Kinross e Stewart. Adesso c'è l'altra faccia al maschile della medaglia degli attori di Alessandro Dalatri, ovvero Fabio Volo. C'è una sorta di scansione nella tua carriera, Alessandro. Appunto, prima Kinross e Stewart, poi Fabio Volo. Quasi tutti fossi innamorato a un certo punto di questi due attori, molto diversi, perché tanto è, come dire, viene fuori da un'esperienza fortemente attoriale Kinross e Stewart, tanto è spontaneo e sembra preso da un ragazzo del popolo, almeno all'inizio, Fabio Volo, con cui tu hai lavorato, appunto, ricordiamolo, in Caso Mai e La Febbre, che sono stati due successi straordinari. Se ci mettiamo anche Massimo Ghini, se ci mettiamo anche Stefania Rocca, c'è un senso del clan, della squadra nel tuo modo di lavorare con gli attori? Ma sai, da ragionarci poi a freddo viene da dire di no, nel senso che ci sono miei colleghi che hanno un senso del clan molto più forte del mio. Diciamo che casualmente è successo che questi due attori, Kim e Fabio, hanno fatto due film con me. E sono due film che sono stati fatti in sequenza proprio immediatamente. Nel caso di Kim, per esempio, c'era una somiglianza molto forte, estetica, di Kim con il Gesù iconografico, quello dei Santini, per capirci, no? Che per me era fondamentale usare in quel tipo di percorso. Mentre con Fabio aveva una cosa straordinaria, una naturalezza che travalicava un po' l'interpretazione. Soprattutto quando ho fatto Casomai, lui, quello che mi era piaciuto del lavoro con lui, ed era un'altra volta un attore che non era un attore, diciamo, mi piaceva il fatto che Fabio prendeva in giro se stesso in quanto maschio, e siccome era un film sulle relazioni uomo-donna, quel percorso mi piaceva particolarmente, cioè era uno che non si difendeva, che non si nascondeva dietro il dito, no? Stefania Rocca è un'attrice fantastica, io a Stefania ho fatto il suo provino di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, era una ragazzina che veniva da Torino piena di voglia e di passione, casomai l'interpretazione di Stefania mi era piaciuta moltissimo perché incarnava proprio una femminilità contemporanea, Nord Italia, Milano, una ragazza che lavorava nel mondo dell'advertising, anche perché con quel film ho ricostruito un mondo che bene o male conoscevo abbastanza bene. Beh, però io questa cosa qua non la capisco, scusa, ma chi li ha costretti a sposarsi? Voglio dire, oggi uno c'ha un sacco di alternative, può essere single, fidanzato, convivente, coppia aperta, chiusa, semichiusa, sex, bisex, trisex, cioè che senso ha, che bisogno c'è di sposarsi? Vabbè, dopo tutto non è che cambia molto, eh? È la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, scusa, sposarsi è un impegno preciso che uno si prende per tutta la vita, No, esagerate un cazzo, quando uno si prende un impegno se lo prende e basta, non è che te lo prendi pensando che a lei un giorno puoi cambiare idea e non vale più. Se tu fai fare un prestito in banca, cambi idea, cosa fai? Non lo paghi? No, scusa. Ma scusa, cosa vuol dire? Allora secondo te uno non può sbagliare? Ma no, chiaro che può sbagliare, capito? È un diritto di tutti, però non può neanche diventare una regola. E soprattutto uno si deve far carico delle conseguenze. E poi, oh, ripeto, nessuno ti obbliga a fare una scelta così grande se sai che non ce la puoi fare. Scusa, Tommy, da quant'è che la pensi così? Da quando ho incontrato lei. Fabio Volo, in casomai Fabio Volo nella febbre, 2005, Alessandro D'Alatri torna a lavorare con Fabio Volo, che diventa in questo caso, Alessandro, un personaggio iconico di una generazione, di un momento che i suoi coetanei vivono in quel paese. Forse La febbre è il tuo film che più cala le radici nella società contemporanea, nella sua società, un film che si sente subito addosso l'affetto del pubblico, trova subito un'empatia con lo spettatore. Ma guarda, la questione, anche quello in quegli anni anticipava un problema che si è presentato poi in maniera drammatica, che è quello del mondo del lavoro. Noi oggi parliamo sempre più spesso di precariato, di disoccupazione, ma io lì volevo parlare secondo me della radice del problema. Il problema vero oggi è il mancato riconoscimento del talento. La gente purtroppo molto spesso è costretta a fare dei lavori per sopravvivenza e non per talento o per passione. Questo è un fatto terribile. È un film che ho sentito moltissimo, quello, perché purtroppo questa è una realtà che ci circonda. Io, se tu vedi, ogni volta, mentre facevo i provini, anche mi ricordo per le figurazioni, domandavo sempre che lavoro facessero le persone e tutti sempre mi dicevano sì, però io vorrei fare un'altra cosa, perché tutti hanno un'altra passione. E questo è un problema, perché questa è una società che, dove molto spesso conti con delle persone che fanno dei lavori che non amano. Quando tu non ami il proprio lavoro, non ami neanche te stesso, non ami quello che c'è intorno. No. La febbre affrontava questa tematica e è un film cui voglio molto molto bene. Poi l'abbiamo ambientato a Cremona, una città che ci ha dato veramente l'anima. Sappiamo ribaltarla, ecco, cioè, e girare in provincia è una cosa troppo affascinante. Ciao papà. Ciao papà. Buonasera dottore. Buonasera. Ciao papà. Ciao, ciao. Ciao. Mamma, papà ha rotto tutte le palline. Massimo. Massimo. Che c'è? Hai rotto tutte le palline. E beh? Se ricontano le palline. Il problema sono le palline adesso? La legge alla quale sto lavorando me l'hanno sbattuta in faccia. Lo sai chi ci lavora adesso? Nappi! Mamma, papà ha rotto anche il puntale. Oh, è il puntale, le palline, il presepe, il Natale, le feste per agosto. Uno straordinario Paolo Bonolis. Sei riuscito a far recitare anche lui, no, adesso, senza che Paolo ce ne voglia. Però, insomma, voglio dire, hai tirato fuori da lui una verve comica da attore di cinema, perché poi che Paolo sia brillantissimo e fuori discussione, ma insomma star davanti a una macchina da presa è un altro mestiere, eppure in questo commedia sexy davvero volava e con lui questo cast da Sergio Rubini a Margherita Bui, appunto a Stefania Rocca, Rocco Papaleo, eccetera eccetera. Come abbiamo detto prima in apertura, quasi un film in anticipo sui tempi, cioè quasi a dire che peccato che non sia arrivato per esempio in questa stagione in cui le commedie italiane più vincenti, più brillanti hanno incassato dai 15 milioni di euro in su. Lo so, ma che ci devo fare? Le distribuzioni, sai, quello è un film che è stato distribuito con meno copie di tanti altri film miei, nel senso, ed era un film natalizio peraltro, per cui sono scelte. La cosa importante è che sono contento invece che quel film ha acquisito valore nel tempo, poi, no? Tra l'altro è andato molto bene, è il mio film che ha incassato di più, perché incassò 6 milioni di euro, per cui considerando che avevamo contro dei mostri sacri, il risultato fu molto interessante. Ma sai, era tutto un po' il mio lavoro, parte sempre un po' dall'osservazione dei comportamenti. E devo dirti che anche l'idea di far recitare Bonolis per fare un politico italiano, cioè, io Paolo non lo conoscevo, ho cominciato a scrivere la sceneggiatura pensando a lui, e quando ho finito il sceneggiatore gli ho presentato dicendogli: guardi, io non ho altri attori con cui farlo questo film, perché secondo me tu sei la persona più giusta per farlo. E secondo me era perfetto per un motivo molto semplice, perché incarnava quel cinismo, no? E quella faccia tosta che è tipica dei politici italiani, voglio dire, che poi la cronaca ci riconduce e ci riconsegna ogni giorno. E quando il cinema fa satira di costume graffiante, come voleva essere quel film lì, è un cinema a cui mi sento profondamente affezionato, perché sono le radici del cinema italiano, ecco, la famosa commedia italiana a cui tutti quanti noi vogliamo molto bene. Però che ti fa Alessandro Dalatri? Dopo Commedia Sexy non fa più film per il cinema per 4 anni, i fatidici 4 anni, e nel 2010 torna con un film per la prima volta nella tua carriera, Alessandro, senza star, senza attori famosi, girato con telecamera digitale a Ventotene, un film che si intitola Sul mare. Salva anche me. Tu non hai bisogno di essere salvato. Te che ne sai? Beh, in effetti non so niente. Sono una normale. Ma quello pure io. No. Sì. Tu hai 2 vite. Quella invernale e quella estiva. Brava, come materassi. Io forse neanche una. Ma tu pensi che la vita che faccio io è bella? Vabbè, dimmi come devo fare per salvarti. Non lo so. Se lo sapevo mi salvavo da sola. Il tuo amico te l'ha detto come andava salvato? Chi deve essere salvato non lo sa di che cosa ha bisogno. Allora Alessandro, come ci spieghi questa voglia di tornare a un cinema un po' più, diciamo, piccolo in termini produttivi? Avevo un desiderio di libertà, di respirare aria libera, aria pulita. Io purtroppo, forse da addetto ai lavori, quando vedo molti cartelloni leggo la furbizia dell'operazione. Ormai i film si fanno sempre con gli stessi attori e con formule che sono più o meno sempre le stesse. Siccome io in qualche modo sono anche spettatore del cinema, ho voluto fare un film che piaceva a me di vedere in qualche modo. E questo film era un film che mi consentiva l'opportunità di fare una sperimentazione più larga, a 360 gradi. L'ho considerato veramente un esperimento, come un secondo esordio l'ho ribattezzato. E l'idea di lavorare con attori giovanissimi, alla prima esperienza, non presi dalla strada, perché erano attori che studiavano e avevano fatto scuole di recitazione, quindi avevano dei curriculum formativi di tutto rispetto, cosa tra l'altro che in Italia non avviene mai, perché gli attori non vengono mai scelti sul curriculum, ma vengono scelti anche per altri motivi. E dall'altra parte l'idea di lavorare con una macchina digitale, che sono una macchinetta con cui lavorano molto spesso i giovani che fanno i loro piccoli cortometraggi, era la mia voglia di lavorare con una troupe molto agile, quindi avere una grandissima agilità e giocare in grande libertà produttiva. Il film è ambientato tutto sull'isola di Ventotene e a causa della grande variabilità meteorologica abbiamo lavorato senza un piano di lavorazione, perché ogni giorno a seconda della meteorologia che avevamo, come cambiava il vento, decidevamo che scena fare. Questa è stata un'esperienza bellissima, forse una delle più belle della mia carriera, perché mi ha restituito in qualche modo quel senso del cinema, no? Del cinema di sguardo, di avventura, di ricerca dell'immagine, che altrimenti purtroppo lavorando soltanto in chiave industriale non può più fare, almeno nel nostro mercato è molto difficile farlo. E nel prossimo film invece recuperi una parte di quella chiave industriale? Beh, l'esperimento l'ho fatto, voglio dire, no? Adesso sicuramente c'è voglia di rimettersi in gioco di nuovo su altri territori. Sto lavorando di nuovo sulle tematiche che sono a me care, che sono sempre il posizionamento dell'essere umano al centro della storia. E in questo caso sto lavorando di nuovo sul posizionamento dei ruoli maschile e femminile, che mi sembra che ci sia ancora da parlarne, perché nonostante tante battaglie, tanti proclami, tante regole, comunque il ruolo maschio-femmina è ancora un ruolo conflittuale, ancora un ruolo, come dire, non chiaro, no? Quindi mi piacerebbe giocarci sempre in chiave, diciamo, leggera, di commedia, ma con uno sguardo sociale. E allora noi, attendendo il nuovo film di Alessandro Dalatri, ringraziamo il nostro ospite, grazie per essere stato qui con noi alle interviste della Rosa Purpurea. Grazie a tutti voi. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, ancora un saluto da Franco D'Assisi in quest'estate 2011. Siamo giunti al momento di approfondire le uscite cinematografiche di questo fine settimana. Sì, perché nonostante agosto ormai sia inoltrato e la bassa stagione del cinema sia un fatto, di film anche questa settimana, anche questo weekend ne escono. Fra avanzi di magazzino, possiamo chiamarli così, e anche qualche novità che magari non ha trovato posto nel soffocante periodo precedente, ma invece adesso sì, ecco che qualche novità si palesa nelle sale cinematografiche italiane. Noi adesso riepiloghiamo tutti i contenuti principali di questa puntata nei nostri titoli di testa. Prima però vale la pena anche ricordarvi che, come stiamo facendo già dalla scorsa settimana, questo agosto ci servirà anche per fare una lunga e approfondita passeggiata fra i principali titoli dei film italiani dell'autunno prossimo. Avremo davvero la possibilità di... siamo stati proprio sui set dei principali film. Questa settimana, tra l'altro, vi sottolineo, grande approfondimento su uno dei film che sicuramente animerà di più il dibattito alla sua uscita, ovvero Diaz di Daniele Vicari, sui fatti proprio di 10 anni fa di Genova. Ma dicevo, titoli di testa. 10 anni dopo i fatti del G8 di Genova, Daniele Vicari prepara Diaz, il film sugli eventi che cambiarono per sempre la storia delle proteste di piazza in Italia. Viaggio esclusivo della Rosa Purpurea sul set rumeno del film, con le interviste al regista e al protagonista Elio Germano. L'horror italiano ci riprova, arriva nelle sale In The Market di Lorenzo Lombardi. 3 amici in viaggio per il concerto della loro rock band preferita si riparano in uno store dopo una rapina in un'area di servizio, ma scopriranno che in quel luogo non sono affatto protetti. Un film tratto da fatti realmente accaduti. Griffin Kiss è il guardiano dello zoo di Boston. Un buon uomo, ma con le donne un disastro. Così decide di farsi dare consigli d'amore dagli animali dello zoo. Un successo in America, Il signore dello zoo esce alla chetichella anche in Italia, con Kevin James e Rosario Dawson e un cast vocale che va da Adam Sandler a Sylvester Stallone. Una trasmissione radiofonica annuncia l'arrivo degli extraterrestri. La gente si divide fra chi li teme e chi li ritiene pacifici. Fantascienza a sfondo sociologico, quella dell'ultimo terrestre, uno dei film italiani della prossima stagione, che vi raccontiamo in anteprima, qui, alla Rosa Purpurea. Oh bene, allora, questi contenuti principali di questa puntata. Noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo. Abbiamo parlato la settimana scorsa di Diario di una schiappa, questa singolare situazione per cui questo film, che tra l'altro è una commedia per famiglie, potremmo dire, insomma, più o meno, ecco, insomma, non si capisce bene forse il target preciso a cui si riferisce, e questo è anche forse il motivo per cui la distribuzione ha deciso di farlo uscire. Settimana scorsa il primo capitolo, questa settimana il secondo, di cui ascoltiamo il trailer. Ma è cioccolata! Oh, Greg! Non entro con la macchia di popò sui pantaloni. Va bene. Quest'anno, Greg, hai bevuto tutte le bibite. Roy? Ecco cosa fanno quando noi andiamo a letto. Io non dormirò mai più. Freddy? Chirag? Patty? Non costringermi a picchiarti ancora! Mel? Polly? Ciao, Freddy, mi ha scambiato per Freddy. Dura la vita. E Roderick? Salite! In un nuovissimo capitolo della saga dei più imbranati di tutti i tempi. È il bando delle donne. È arrivato il momento di imparare come si fa a rendere più facile la tua vita. Diario di una schiappa 2, la legge dei più grandi. Regola numero 2, deludi sempre le aspettative di mamma e papà. Oggi avevo il compito di matematica e l'ho sbagliato. Oh, Greg. Comunque, Ho preso quasi i sufficienti. Meglio che insufficienti. Boris, ascoltando il trailer ancora di più, mi viene insomma alla mente il quesito che ponevo prima. Forse c'è un problema proprio di target per questo film. Abbiamo già parlato la scorsa settimana. A parte che è abbastanza bizzarro che se un film non è mai uscito sul mercato italiano poi arrivino tutte e due, sia il primo che il sequel. Segno che da qualche parte è stato addirittura necessario un sequel e che invece da noi non era stato necessario neanche pubblicare il primo. Ma non è che da noi proprio manchi un po' questo target? Cioè mi sembra che questo film vada a parare soprattutto nel suo mercato originale, ovvero negli Stati Uniti, in un target che negli Stati Uniti va già al cinema, cioè una età intorno ai 12, 13, 14 anni, che forse da noi non è ancora un pubblico presente. Sono d'accordissimo e devo dire che questo ha secondo me un altro problema di target, non solo il fatto di rivolgersi a un pubblico che noi di fatto probabilmente non abbiamo o che se abbiamo decide di andare a vedere altro, è educato a vedere altro, ma anche perché le tematiche del diario di una schiappa, a dispetto del titolo, sono tematiche leggermente più adulte dei loro protagonisti e quindi si avvicina molto di più, se vogliamo, all'essere la rivincita dei nerd un po' più ingenuo che ad essere realmente un film per bambini, per ragazzi, per preadolescenti. Insomma, le tematiche sono più adolescenziali e questo sicuramente non aiuta. Devo dire che quando mi hai detto di vedere Diario di una schiappa 1 e 2 non ti ho voluto molto bene. Dopo, devo essere sincero, sono stato più soddisfatto perché il film ha davvero poco di interessante a mio parere, specialmente il secondo poteva tranquillamente essere evitato. Nel momento in cui però per una questione professionale sono andato a cercarmi i libri da cui sono tratti, ho scoperto tutto un altro mondo. È molto più interessante leggerlo, il diario di una schiappa, piuttosto che vederlo, perché lì invece si trova un bambino pestifero, molto sfortunato, molto sfigato, come si dice nel gergo, che mette a punto piani improbabili per cercare di sopravvivere alla scuola, di sopravvivere ai suoi coetanei, cose che abbiamo vissuto tutti, cose che sono molto divertenti e allo stesso tempo molto tragiche e che lì sulle pagine vengono ben trattate, mentre devo dire al cinema molto poco. Ecco, in questo secondo capitolo si svolgono, diciamo così, i temi, le tematiche classiche di un sequel. Il ragazzino Greg frequenta la seconda media, si è ambientato, si è liberato insomma delle cose, delle caratteristiche che lo hanno fatto penare in prima. C'è uno sviluppo, diciamo così, del personaggio, il che mi fa personale. Esatto, mi fa pensare che evidentemente nel mercato americano qualcuno si è anche affezionato a questo personaggio, qualcuno appunto, come dicevo prima, ha sentito anche il bisogno, perché sennò di solito i sequel non vengono fatti, ci sono raffinate strategie di marketing dietro queste scelte. E come dicevi tu giustamente, c'è una sorta di crescita accelerata dei personaggi e sono tematiche vicine a personaggi un po' più grandi. Questo probabilmente rispecchia anche però uno stato della preadolescenza che è diverso negli Stati Uniti rispetto che da noi. Sì, assolutamente sì, qui devo dire che la dimostrazione di quello che dici tu, che negli Stati Uniti c'è un'affezione molto maggiore per il personaggio di questo undicenne, sta nel fatto che già nel sequel c'è l'aspetto più personale, mentre il primo può sembrare una sorta di Lepetinicola per chi l'ha visto l'anno scorso, il secondo già si parla della crisi tra i genitori, del tentativo di tornare insieme, ci sono già tematiche che creano maggiore empatia e questo dimostra che sicuramente ha avuto successo in America, ma lo ha dimostrato anche la presentazione in Italia, è venuto addirittura il padre della saga letteraria, come se per Harry Potter venisse la Rowling. Insomma, c'è una grande probabilmente sopravvalutazione o comunque amore per questa saga. Da noi sembra davvero destinata, secondo me, forse a un buon successo nell'home video, nel senso che si potrebbe trovare il suo target nell'home video. Sicuramente in sala mi sembra destinato a un insuccesso abbastanza scontato. E allora aspettiamo di vedere quello che succederà. Certo, appunto, l'uscita del 6-7 agosto è piuttosto penalizzante per questo tipo, soprattutto di film. La Rosa Purpurea. Ancora insieme qui Rosa Purpurea, l'attualità al cinema. Abbiamo parlato di Diario di una schiappa, adesso è il momento di affrontare un film italiano che esce in questo primo weekend di agosto. È un film di cui si è parlato abbastanza negli ultimi tempi. Io ero alle giornate professionali di Riccione, anche lì questo film In the Market si era fatto notare anche per un gadget molto carino che era stato regalato a tutti quanti, che era un sacchetto per il vomito, diciamo così, un sacchetto con il timbro In the Market. Questo come a dire, ecco, vedete il marketing creativo, no? Quando si hanno pochi soldi per promuovere un film, ma si ha l'idea giusta, come dire, attenzione, preparatevi, questo vi servirà dopo la visione di un film, che è un film pieno di sbudellamenti, di trash, proprio di quello esagerato, che però ha un suo perché. In the Market, come potete immaginare, non si riferisce ai mercati finanziari, ma bensì a quello che succede in questo film. Dicono anche ispirato a fatti realmente accaduti, come se questo fosse un mantra che allontana ogni possibilità che il film sia una bufala. Non è vero, possono esserci fatti veri, ma film pessimi, non è questo caso ovviamente, ci possono essere anche fatti totalmente inventati in ottimi film. È il racconto di un viaggio di tre amici che ha una tappa, il concerto di una rock band che i ragazzi amano particolarmente, ma non tutto andrà come pensavano i protagonisti, e a un certo punto i nostri, braccati e costretti anche a cercare un posto per avvisare la polizia, si rifugiano in questo market, che è quello del titolo, dove succedono cose che nessuno di noi vorrebbe vivere. Allora sentiamo prima il trailer. È un sentiero atroce che noi tutti imbocchiamo. Diciamo che il trailer tende a suggestionare, insomma, più che a spiegare o a raccontare o a narrare. Boris, dicevamo però, insomma, Lorenzo Lombardi alla regia, attori tutti praticamente italiani, poi c'è proprio un cast che ha messo insieme sceneggiatura, un film collettivo, perché alla sceneggiatura ci sono lo stesso Lorenzo Lombardi, Eleonora Staggi, Marco Martini, nel cast ci sono Marco Martini e Eleonora Staggi, insomma, si è fatto tutto un po' in famiglia. Però con un risultato che non è del tutto disprezzabile, insomma. Allora, guarda, la direi così: non rivedrei In the Market, ma sono ansioso di rivedere Lombardi, cioè spero di vederlo in un'altra prova, nel senso che In the Market ha tutti i difetti che un brutto horror dovrebbe avere, ma anche tutta una serie di spunti interessanti che sicuramente vanno, come dire, approfonditi, tra cui appunto anche lo stile di regia, che sembra molto interessante. All'inizio, a tutti coloro che decideranno di andarla a vedere, agli appassionati di horror, chiedo 10 minuti di pazienza, perché i primi 10 minuti sono bruttini, avvengono in questa macchina che poi si romperà, che poi li costringerà a rifugiarsi nel market del titolo, e devo dire sono recitati male e scritti peggio. Dopo comincia un horror che si installa in quella tradizione moderna dell'horror europeo, che riesce a fare prodotti medi abbastanza interessanti. Continuano ad esserci cadute di stile, penso al macellaio internettaro e con una laurea in antropologia non sfruttata. C'è Ottaviano Blitch, ormai specializzato non solo nel rendere la radio più interessante, ma anche nel fare film horror. C'è comunque, secondo me, una nuova stagione, una piccola nouvelle vague, una timida nouvelle vague dell'horror italiano, che secondo me è ricominciata con Shadow di Zampaglione. Quindi su In the Market io direi anche con un po' di accondiscendenza, però, di promuoverlo, perché ha molti spunti interessanti. Ecco Boris, hai toccato un tasto che mi sta particolarmente a cuore. Noi da questa trasmissione abbiamo più volte lamentato, ma era un lamento da appassionati, un lamento d'amore potremmo dire, l'assenza di un cinema di genere italiano, soprattutto da parte dei giovani, che dovrebbero essere quelli che più si ingegnano su questo tipo di cose, quando invece per esempio un paese come la Spagna negli ultimi 10-15 anni ha tirato fuori, a parte registi come Balagueró, come Amenábar eccetera, ma ha tirato fuori decine e decine di film con atmosfere e tinte che andavano dal thriller all'horror più conclamato. Allora, rimane il fatto che quello che abbiamo visto fare come opere prime e seconde a questi registi spagnoli è nettamente meglio di quello che stiamo facendo, vedendo fare ai nostri registi di genere, e anche qui bisognerebbe chiedersi perché. Magari una volta lo faremo e cercheremo di risponderci, ma è almeno un fatto, e questo lo vogliamo sottolineare, come dicevi tu, che qualcosa si sta muovendo, a volte con risultati disastrosi come si è visto quest'anno. Penso a un film come Sei giorni sulla terra, che appunto tu dicevi non vorrò più rivedere, io non voglio più rivedere neanche quel film, ma il tentativo c'è, cioè quello di provare a raccontare anche con mezzi esigui, ma con un'idea di cinema. Questa mi sembra la prima conquista di questo piccolo, chissà se neo, movimento. Lo scopriremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma insomma di provare a riavvicinarsi a questo genere che tante soddisfazioni ha dato al cinema italiano negli anni 70. Assolutamente d'accordissimo, credo che tra l'altro, oltre un'idea di cinema, ci siano anche buone mani dentro la macchina da presa, nel senso che questo film, come è evidente dalla lettura del cast, soffre di mancanza di risorse e del fatto di aver fatto tutto in famiglia, e quindi chiaramente c'è uno che fa bene l'attore, ma magari non è detto che sia un bravo sceneggiatore, e quindi francamente i difetti che si possono trovare soprattutto nella scrittura sono molto più perdonabili. E a mio parere la differenza tra questa nouvelle vague dell'horror italiano e quella spagnola è semplicemente che quella spagnola ha più risorse e può permettere ai suoi registi di grande talento di essere più visionari. Ma devo dire che se dei giovani interessanti sono usciti a livello proprio di capacità dietro la macchina da presa, di occhio, di sguardo, sono usciti proprio in quelle poche comparsate nel genere che sono state fatte negli ultimi anni in Italia. E allora, bene, questo è In the Market di Lorenzo Lombardi nei cinema italiani. A questo punto apriamo una parentesi, apriamo la prima finestra sul nostro game, che in questa estate 2011 non ci lascia nemmeno ad agosto, e cominciamo a giocare. Abbiamo deciso di dedicare agosto ai classici, abbiamo voluto uscire un po' dall'attualità delle uscite a un video invece di concentrarci sui classici. Sentite la prima traccia. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata? Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, in questo consiste il gioco. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo a cui scrivere con il vostro indirizzo privato per provare appunto a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Va bene, siamo ancora alle novità. Dopo aver parlato della novità italiana di questa settimana, adesso andiamo ad affrontare un film che arriva dagli Stati Uniti. Anche qui si può riproporre in un certo senso il tema che così diciamo sottolineava il primo film di cui abbiamo parlato, Diario di una schiappa, cioè l'assenza forse di un target italiano per questo tipo di film, che infatti molto spesso sono relegati all'estate. Mi ricordo forse l'anno scorso, vado assolutamente a memoria, un film che aveva il titolo originale di The Mole, di dove c'era anche lì una specie di guardiano, insomma un signore che lavorava in questo grande magazzino, in questo grande ipermercato degli Stati Uniti, c'era questa figura. Stavolta invece arriva da noi qualcuno che il guardiano lo fa allo zoo, e si intitola proprio Il signore dello zoo. Ascoltiamo il trailer. Hey, what's that? It says, will you marry... Will you marry me? No. Really? I know it shouldn't bother me that you're a zookeeper, but it kind of does. Really? 5 years later, the world's most devoted zookeeper... Come on, Donald. Let's move you out of the sun. ...is getting a second chance. I hope my being here doesn't make you uncomfortable. I'm not uncomfortable. So comfortable. Oh my God! No, it's fine, I got it. Oh God, it's barbed. Okay, so hey, how you doing? Now. Offer's still on the table for you to come work with me at the dealership. That is how you get a girl like Stephanie. I gotta get out of the zoo. The animals of the Franklin Park Zoo will have to do the unthinkable. Griffin, we need to talk. Oh, crud. Le compagnie ci credono talmente tanto che non producono neanche i trailer italiani. Questo è un classico anche per noi che dobbiamo lavorare sull'informazione radiofonica per il cinema durante l'estate. È panico perché molto spesso trailer italiani, come abbiamo sentito anche settimana scorsa con Vanishing on the 7th Street, non ce ne sono. E allora noi vi facciamo ascoltare quello originale, quello americano. In America questo è un film che ha avuto il suo perché, diretto da Frank Coraci. C'è un cast vocale di tutto rispetto, che va da Sylvester Stallone ad Adam Sandler, da Rosario Dawson a Judd Apatow, e capirete anche perché, perché è la storia di un guardiano dello zoo che per imparare l'arte amatoria nei confronti delle donne si fa aiutare dagli amici animali che gli danno dei consigli. Certo, mette a dura prova il nostro senso di verosimiglianza, però insomma, questo è il film. Boris, con quali risultati? Io dirò, allora, è da un mese che è uscito in America ed è andato bene. Un film assolutamente onestissimo. Io faccio fatica certe volte a capire le strategie delle compagnie americane in Italia. Non far uscire neanche il trailer italiano di un film che comunque si difende senza essere straordinario, non è neanche il genere che io preferisco, però è sicuramente un film che ha una buona idea, perché è una buona idea farsi, non dico in generale nella vita, ma averla come idea cinematografica, quella di prendere un personaggio imbranato che decide dopo tanti fallimenti di farsi suggerire le mosse d'amore, le strategie d'amore dagli animali. In fondo in amore spesso siamo degli animali. E è ancora forse un'idea ancora migliore decidere nel cast vocale, ricordiamo che nel cast normale ci stanno Kevin James, Rosario Dawson come dicevi tu, però nel cast vocale ci sono Adam Sandler che fa la scimmia, Sylvester Stallone che fa il leone, Cher che fa la leonessa, Judd Apatow fa l'elefante, Judd Apatow che poi fa parte diciamo è il boss di questo, di questa sorta di zoo un po' maschilista che ha messo su da qualche anno a questa parte, John Favreau, il regista di Iron Man, e l'orso, e così via. Cioè, c'è anche l'idea molto divertente di dare a ognuno l'animale che sostanzialmente si merita, che uno immaginerebbe addosso a lui. Niente, non rimarrà nella storia del cinema americano né mondiale questo film, ma sicuramente è un film che ti fa passare un'ora e mezza, un'ora e quaranta in assoluta intrattenimento. Quindi devo dire, lo promuovo senza entusiasmi, ma lo promuovo. Insomma, un film che ci poteva stare anche in una parte più alta della stagione e che comunque potrebbe nobilitare questa, insomma, perché spesso ci si lamenta che manca il prodotto durante il solleone, invece qui il prodotto in questo caso c'è. Il problema è che la distribuzione italiana è tale, e proprio anche la distribuzione dei cinema sul territorio è tale, che bisogna andarselo un po' a cercare, perché quando gli italiani non sono più nelle città ma sono sulla costa, magari, ecco, trovare i film diventa magari un po' più difficile se si va fuori dal blockbuster. Però dicono che gli italiani rimangono sempre più in città, quindi chissà che possa essere questo il caso. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, come abbiamo detto, stiamo per affrontare un tema e un film che avranno insomma grande risonanza alla sua uscita, ovvero Diaz di Daniele Vicari. Sui fatti proprio di 10 anni fa, se ne è parlato proprio in queste settimane, poche settimane fa, proprio dei 10 anni del G8 di Genova e di tutto quello che, poi sapete tutti quello che è accaduto con la polizia che entrò, arrestò, malmenò, tutte cose che poi sono state sottolineate dal processo e che sono state ancora una volta, sono venute fuori proprio dopo 10 anni le manifestazioni, i cortei eccetera che ci sono stati appunto nei giorni scorsi. Ora, è un film molto particolare, è un film che il cinema italiano da troppo tempo forse non faceva più, un genere di film, un tipo di film che appartiene a una storia nobile del cinema italiano, che è quella che vede i suoi grandi maestri in Pietro Germi, in Elio Petri, eccetera, eccetera. È un film che forse il pubblico italiano di oggi non è pronto o non è più abituato a vedere. Questo sicuramente creerà un dissidio, ma forse creerà anche un grande interesse per andare a vedere come sono andate le cose. Sentiremo fra poco nelle interviste il regista Daniele Vicari dire di essersi sostanzialmente attenuto alla verità giudiziaria, quindi, come dire, non avere forzato quasi nulla, anche se poi tutti i film e tutte le opere dell'ingegno hanno un punto di vista personale. Boris Sollazzo è andato sul set a incontrare Daniele Vicari, ad incontrare il protagonista Elio Germano, set in Romania. Boris, com'è andata? Devo dire che non è stato il mio primo set, ma è sicuramente stato il set più bello. Vedere Genova nel piano di Bucarest ricostruita nelle sue vie più calde di quei giorni, vedere una scuola rumena diventare la Diaz e vederla diventare la Diaz realmente, cioè in una maniera sconvolgente anche fuori dai set ricostruiti, è stato interessante, così come vedere attori francesi, tedeschi, svizzeri, italiani, ricordiamo sono ben 140 attori e 8.000 comparse, quindi non solo è uno di quei film scomodi che non si facevano più da tanto in Italia, ma anche uno di quei film grandi, ambiziosi per produzione, e in questo bisogna fare i nostri complimenti a Domenico Procacci, che ha in gran parte investito di suo, perché la produzione è al 60% della Fandango e poi al 20% della Mandragola e di Pact, quindi una coproduzione italo-franco-romena. Non ci sono i grandi colossi italiani dietro Diaz, non l'hanno voluto, come dice Daniele Vicari, non hanno detto né sì né no, però è davvero una grande prova, per, a mio parere, per il cinema italiano, che ritorna a cercare di raccontare grandi storie, di dire la sua all'interno della storia recente italiana, di dire la sua in maniera politica allo stesso tempo, però profondamente cinematografico. Quello di Daniele Vicari, per le scene che ho visto girare, per le scene che ho visto già girate e premontate, è soprattutto un gran film, e poi anche una considerazione su quello che è stata l'Italia negli ultimi anni. Quindi sono molto interessato a Diaz come oggetto storico, ma soprattutto a Diaz come oggetto cinematografico. 140 attori non è da film italiano, questo è poco ma sicuro. Allora andiamo a sentire l'incontro fra Boris Sollazzo e il regista Daniele Vicari. Sto facendo un film che ti prende per le budella, cioè coinvolgente in questo senso, sia per quello che significano i fatti accaduti a Genova nel 2001, sia per il film in sé, cioè il film in sé è un mondo complesso che è molto difficile da dominare, che sfugge un po' da tutte le parti, e questo lo rende interessante da fare, perché più che costruire le situazioni devi scegliere, perché si determinano proprio dei fatti, degli accadimenti che tu devi riprendere. Quando sono in ballo così tante persone, così tanti personaggi, così tante comparse, no? Così tanti ambienti, il livello di dominio che il regista ha sul film diminuisce, e questo non è sempre un aspetto negativo. Secondo me i fatti di Genova nel loro complesso rappresentano una svolta politica e culturale profonda nel nostro paese. Sono un nervo scoperto per quel motivo. Secondo me nella storia italiana recente l'unico fatto paragonabile è la marcia dei 40.000, sono i 35 giorni della Fiat. A livello di regia, come hai tradotto tutte queste cose che stai dicendo in questo momento, la partecipazione, la voglia di documentare, perché come hai detto tu è un pezzo di storia ma stai facendo cinema? L'ho tradotta in questa maniera, cioè la macchina da presa non è uno sguardo distaccato, esterno agli avvenimenti, ma è un personaggio del film, quindi sta dentro gli avvenimenti. La macchina da presa travolge e viene travolta, è un punto di vista e è guardata, cioè la macchina da presa è partecipe, e questa cosa qui secondo me è la scelta che sto facendo per dare la possibilità a qualunque spettatore di essere dentro il fatto raccontato, non di essere esterno. Protagonista di questo film, un attore che è indicato molto spesso come il più grande talento del cinema italiano contemporaneo, ovvero Elio Germano. Qual è il suo ruolo, Boris? Chiaramente i nomi sono tutti di fantasia per questioni legali, ma anche perché non si vuole andare troppo a gamba tesa sulla realtà, ma chiaramente chiunque conosca quelle vicende può conoscere e riconoscere i personaggi. Dario Germano è Luca Gualtieri, alias Lorenzo Guadagnucci, giornalista, uno delle persone più coinvolte all'interno dell'affair Diaz, che ricordiamo avviene un giorno dopo la morte di Carlo Giuliani. Il film non parlerà della morte di Carlo Giuliani, se non esposto si vedranno delle immagini di repertorio, ma non verrà ricostruito, si parla dal 21 di luglio in poi. E ovviamente Elio Germano, ovvero Luca Gualtieri, ovvero Lorenzo Guadagnucci, era all'interno della scuola Diaz. Piccola curiosità, in questo film sono state versate lacrime e sangue. Le lacrime di Daniele Vicari, che non è riuscito a trattenerle nel momento in cui riprendeva la scena del passaggio in palestra, il sangue di Elio Germano, che in una delle scene più concitate ha sbattuto la testa sul termosifone ed è dovuto andare al pronto soccorso di Bucarest perché il sangue non era di scena ma era il suo, e quindi insomma, come per dire, quando si fanno veramente tanti sacrifici per il cinema. Ho quasi l'impressione che, togliendo Volonté, Diaz sia un po' lo specchio di indagine sul cittadino di Sopra di ogni sospetto, cioè la stessa volontà di mostrare un'Italia sia che perde l'innocenza sia che perde... Sì, beh sì, in generale Rosi, no? Penso che faccia, anche se comunque, ecco, quello era un cinema completamente diverso, nel senso che era espressionista, era molto più metaforico, molto più di rimando di qualcosa, no? Qui invece si sceglie proprio la strada opposta, cioè di raccontare le cose così come sono, proprio in maniera frontale. Io parlavo anche di quel tipo di cinema perché a quei tempi il cinema si poteva permettere di dire determinate cose, Rosi, Petri, l'abbiamo detto. Adesso Diaz sembra un'eccezione, cioè ha creato polemiche prima ancora che voi andaste sul set. Sì, l'eccezione è di confrontarsi con un fatto storico, no? Nel senso che altre cinematografie ci insegnano che si parla quasi contestualmente delle cose che accadono nel proprio paese, e invece in Italia si fa molta fatica in questo senso qua. Quindi questa è la grande eccezionalità. L'altra cosa è di fare un film così grande, cioè rispetto anche a quel cinema che dici, questo è un film veramente che vuole essere per tutti, no? Cioè non è un film partigiano, no? E forse in questo momento è poco interessante fare un film partigiano in questo senso, perché sembra appunto, cioè il modo in cui hanno ghettizzato il discorso Genova è proprio stare questo, no? Cioè è una parte politica contro un'altra. Invece lì è una cosa molto più ampia quello che è successo, e a mio avviso questo film c'ha questa caratteristica così molto più ampia, cioè parla di umanità, come quando uno vede un film sul nazismo, non è soltanto un film sul nazismo, è un film sulla possibilità che un essere umano arrivi a commettere delle cose, e che sia da attore che da spettatore, per quanto mi riguarda, è molto più interessante. Così questo film ha questo secondo me valore, oltre che quello storico di racconto dei fatti. E questo era Elio Germano, protagonista di Diaz, un grande lavoro del nostro Boris Sollazzo per La Rosa Purpurea sul set rumeno del film di Daniele Vicari, che arriverà nelle sale italiane la prossima primavera. Avremo ovviamente modo di parlarne a film visto e a film finito. Grazie a Boris Sollazzo. E allora eccoci arrivati a un'altra traccia, un secondo frammento del film misterioso di oggi con cui stiamo giocando per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Sentiamo. Allora mi raccompagni? Io? Sì, tu. Ma ci vuoi andare su? No, o me ci porti tu, o te ci porto io con le guardie, perché mi sono stufato da stare qui a pregare. Hai capito, sì o no? Avete capito, sì o no? La Rosa Purpurea, @radio24.it, scriveteci di che film si tratta per provare a vincere questo Blu-ray. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Continuiamo a parlare dei film che vedremo nella prossima stagione, soprattutto in questo caso nel prossimo autunno. Un film che si intitola L'ultimo terrestre ed è un'operazione molto interessante, molto particolare, diretta da un regista che è Gianni Pacinotti, in arte Gipi, perché come fumettista e illustratore così è conosciuto, ed è un nome di totale importanza per questa che è appunto l'ottava arte, appunto il fumetto, l'illustrazione. Parliamo di questo film che racconta la storia dell'ultima settimana sulla Terra prima dell'arrivo di una civiltà extraterrestre. Lo fa però in maniera molto dissacrante, molto, molto ironica, scavando dentro i personaggi. Certo non aspettiamoci una fantascienza da astronavi che planano, ma insomma qualcosa che invece mette in discussione il nostro rapporto con quello che non conosciamo. Ascoltiamo subito una clip. Mi chiedo sempre come saranno fatti, cioè la forma proprio, se sono alti oppure se sono bassi, se si possono toccare, se invece sono solo energia. Anna. O forse non può... Anna. C'è una cosa che forse ti farebbe piacere vedere. Un nostro amico che lavora al ministero dice che il governo è già d'accordo con loro, che sbarcheranno presto, che andrà tutto bene, insomma che sono pacifici. Un film che coinvolge anche Radio 24, scoprirete perché nei primissimi minuti, perché l'annuncio dell'arrivo degli extraterrestri viene dato a una famosa trasmissione radiofonica. Alcune scene sono state girate proprio qui da noi in radio, quindi insomma, come dire, siamo abbastanza orgogliosi di essere dentro questo film. Abbiamo incontrato il regista Gianni Pacinotti e il protagonista Gabriele Spinelli, sentiamo. Il film apre con un cielo stellato di notte e con una trasmissione radio dove gli ascoltatori chiamano da casa e si lamentano con il conduttore radio di questo fatto annunciato che sta per arrivare una società extraterrestre, e si lamentano in termini quali adesso ci ruberanno il lavoro, già sono arrivati i cinesi eccetera eccetera, ma arrivano una società disillusa e disincantata e incapace di immaginare un qualsiasi futuro, una società che secondo me somiglia molto a quella del paese in cui vivo. E io nel film racconto quest'ultima settimana prima dell'arrivo di questi extraterrestri, concentrandomi sulla figura di un uomo che è proprio il manifesto di questa società, perché è un personaggio che ha una vita molto squallida, molto compressa, fa il cameriere al bingo dove viene trattato malissimo da tutti i suoi colleghi, non ha relazioni sentimentali eccetera, e anche lui ignora, cioè ritiene assolutamente inutile e fuori insomma che non sia degna della sua attenzione questa venuta di questa civiltà, ma in realtà questa civiltà verrà per lui, è una sorta di grazia, una specie di avvento religioso in realtà. Non devi avere paura degli alieni, andrà tutto bene. Avevano detto che arrivavano, ma io non credevo che fosse così, che ci si potesse trovare così bene insieme. Io avverto una forte negatività in te, dovresti aprirti, abbandonarti un po' più alle energie positive astrali. Ecco, allora parliamo di questo personaggio immagino non facilissimo, come ci hai lavorato? Ci abbiamo lavorato insieme, ci siamo immaginati una patologia che poteva essere quella di non riuscire a esprimere le proprie emozioni, e l'abbiamo incrociata con alcuni aspetti del mio carattere che sono simili. Abbiamo levato tutti gli altri aspetti un po' giocosi e abbiamo amplificato quelli che servivano per il personaggio. A sei dita, uno è lungo. Da un rettiliano, stai lontano perché sono mossi da impulsi sessuali. Stai attento. Mi si appoggia dietro. Gianni Pacinotti e Gabriele Spinelli, regista e protagonista di L'ultimo terrestre nei cinema italiani dal prossimo autunno. La rosa purpurea. Ed eccoci arrivati in fondo alla corsa della rosa purpura di questa settimana. Come sempre siamo al momento di vedere un po' quali film ci propone il piccolo schermo, tanto dai palinsesti televisivi, rigorosamente in chiaro e gratuiti, come sempre facciamo noi qui alla rosa purpura. La nostra policy non prevede di spendere soldi per il cinema, almeno per il cinema di televisione. Poi ovviamente esiste l'on video di cui ci occuperemo fra poco con le recensioni di Claudio Poffi. Anche in quest'estate, anzi forse soprattutto durante l'estate, la televisione diventa particolarmente amica del cinema e del buon cinema, perché i palinsesti hanno bisogno di iniezioni di contenuti e molto spesso le reti televisive puntano proprio sulla settima arte e sui classici per così far passare mattine e pomeriggi che diventano molto gradevoli grazie anche a queste proposte. Noi siamo con gli amici della redazione di Film TV e precisamente con Nicola Cupperi. Ciao Nicola. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buona estate anche a voi, anche lì a Film TV mi pare di capire la Sara Cinesca non si abbassa mai. Assolutamente no. Allora, come sempre abbiamo preparato un paio di proposte, un paio di suggestioni dai palinsesti della prossima settimana. Con cosa cominciamo? Allora, cominciamo con L'arte del sogno, che verrà trasmesso da Rai Movie lunedì alle 19:10. L'arte del sogno di Michel Gondry parla di Stéphane, un giovane ragazzo con un padre messicano, una madre francese, che ha vissuto tutta la sua vita in Messico a seguito del padre, e dopo la morte di quest'ultimo a causa di un cancro si trasferisce a Parigi dalla madre, che lo attira con la promessa di un lavoro molto creativo. Infatti Stéphane è un ragazzo molto particolare, ha sempre avuto problemi a distinguere il sogno dalla realtà. In realtà il lavoro che finisce a fare sarà molto monotono e per sfogarsi il ragazzo si rifugia di continuo nella sua fantasia. Nel frattempo l'affascinante vicina di casa di Stéphanie, si invaghisce di lui nonostante le sue stranezze. Gondry continua imperterrito e senza pause a imporre il suo peculiare affascinante punto di vista estetico. A partire dalla fulminante carriera nei videoclip, passando poi per il controverso esordio di Human Nature, arrivando fino al capolavoro Se mi lasci ti cancello, il regista francese ha sempre parlato d'amore con una levità e una sensibilità rare, e anche in questo caso non si smentisce, anche se il risultato è un po' meno riuscito rispetto a Se mi lasci ti cancello, che rimane assolutamente la vetta del suo cinema. Lei non uscirà mai con te, ok? Ti farà diventare matto. Mi farà diventare matto. Mi rifiuto di credere che ci sia solo dell'amicizia con Stephanie. Ci sono segni che non possono essere fraintesi. Non possono essere fraintesi. Guardate, guardate. Ah, ecco, lei mi sta baciando a meno di un centimetro dalle labbra. Segno più che evidente che lei mi desidera. Dove dovrebbe baciarti un'amica per salutarti? Sulla fronte? No. A metà strada tra le orecchie e le labbra. Questo è ciò che viene considerato normale. E poi, se io non avessi mosso indietro la testa, lei mi avrebbe baciato sulle labbra. Perché ha evitato il bacio allora? E allora ricordiamo l'appuntamento riepilogativo con L'arte del sogno, Rai Movie, 19:10 lunedì, Michel Gondry che crea sempre i suoi mondi fatti di virtualità, anche il successivo film tutto dedicato alla passione per il VHS era davvero un altro grande film di costruzione proprio di un mondo quasi virtuale, fatto però di cose quotidiane, di scatoloni, di latta, di carta stagnola, un mondo molto molto affascinante quello di Michel Gondry. La seconda segnalazione invece, Nicola? La seconda segnalazione è un maledetto imbroglio che andrà in onda su Iris sabato alle 9:45 del mattino. Il commissario Ingravallo indaga su un furto in un palazzo dove durante il primo sopralluogo viene commesso un omicidio e quindi ovviamente le indagini del commissario si spostano su questo caso più importante. Il film è tratto dal capolavoro assoluto di Carlo Emilio Gadda, Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Ed è stato scritto, diretto e interpretato da Pietro Germi, che è sicuramente uno dei registi più sottovalutati del cinema italiano, nonostante peraltro l'Oscar alla sceneggiatura per Divorzio all'italiana. E il film, nonostante il previdente abbandono dello sperimentalismo linguistico di Gadda, l'ambientazione in un'altra epoca, infatti si passa dal fascismo agli anni 60, e la presenza di un finale canonico che mancava invece nel libro di Gadda, è un film di genere assolutamente bellissimo e che ha trovato anche l'apprezzamento dello scrittore stesso. È un poliziesco che mantiene un'atmosfera scettica, ma che dà dei tocchi molto intelligenti di humor e grottesco. Quando torna, Diomede? Non lo so, forse domani. Allora, se voi permettete... Non ho mai chiesto nemmeno perché sono venuto fin qui. Perché? M'hai visto arrivare e hai tentato di correre via ad avvertirlo. Non è vero. Di che è stata l'idea? Tua o sua? Gli ha dato la chiave e lui mi ha fatto fare un doppione. Avete scelto il giorno adatto, tu fuori per gli anelli coi testimoni. La signora era uscita e tutto faceva pensare che sarebbe tornata tardi. Non è vero. E cosa non è vero? Niente è vero. Ve lo state inventando tutto voi. Io gli volevo bene, la signora mia, come la sorella. Ricordiamo ancora l'appuntamento, Un maledetto imbroglio, sabato alle 9:45 del mattino su Iris, e ricordiamo anche che uno dei protagonisti di quel film, Nino Castelnuovo, sarà nostro ospite nell'intervista della Rosa Purpura la prossima settimana, sabato alle 17:30, e ci racconterà anche un po' del suo lavoro e del suo rapporto con Pietro Germi. Grazie a Nicola Cuppari di Film TV, alla prossima settimana. Grazie mille Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori della redazione di Film TV. Ciao. Ebbene, adesso prima di parlare di un video giochiamo con la terza e conclusiva traccia del game di oggi, ascoltiamo. C'è il posto e nulla posso fare. È il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E insomma, l'epoca, il tono, il dialetto dovrebbero aiutarvi a capire questo film, di che film si tratta, di quale grande capolavoro del cinema italiano si tratta. La Rosa Purpura a @radio24.it per provare a vincere questo film. E invece, settimana scorsa avevamo ascoltato questa traccia. Roger Moore. Sì. Okay. Io penso solo a Sean Connery, no, sul serio. No. Non conoscete l'espressione, no, alla Sean Connery qui? Roger Moore. Okay. Beh, insomma, un Bill Murray alle prese con il giapponese, con un mondo che diventa quasi alieno in questo non luogo, che è questo grande albergo in cui si vive una storia totalmente platonica con Scarlett Johansson. Avete capito, si tratta di Lost in Translation, era il nostro game della scorsa settimana. I vincitori del nostro gioco verranno avvisati, come per tutta l'estate, dalla segreteria di Radio 24 per ragioni proprio organizzative. Però invece la recensione la facciamo subito con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, questo Blu-ray, quell'uscita in alta definizione da CG Home Video, sicuramente di eccellente qualità video, qualcuno, qualche appassionato magari storcerà il naso. Ebbene sì, la grana c'è, però è legata alla riprese con luce naturale, quindi non sono difetti del master né tantomeno della lavorazione di questo splendido disco. C'è una traccia DTS ad alta risoluzione anche in italiano, c'è anche quella originale in inglese, ci sono tante battute in giapponese con la sottotitolazione, sono entrambe di ottimo livello. Tra gli extra, tutti già pubblicati su DVD, segnalo sicuramente l'interessante diario di produzione di circa 30 minuti, ma attenzione perché c'è anche l'incontro romano che avvenne per il lancio del film con Sofia Coppola e Bill Murray. E allora, questo per quanto riguarda Lost in Translation. Noi andiamo avanti con gli altri film, le recensioni delle novità in un video della Rosa Purpurea, cominciando da The Next Three Days. Ma prima di fare qualsiasi cosa, devi chiedere a te stesso se ne sei in grado. Ce la fai a scordarti di rivedere i tuoi genitori? A uccidere una guardia? A lasciare tuo figlio in una stazione di servizio? A buttare una cara vecchietta a terra solo perché si trova tra te e la porta? Perché per fare questa cosa è così che devi diventare. E se non ce la fai, non iniziare. Farai solo uccidere qualcuno. A Pittsburgh, John Brennan è un insegnante universitario con una vita felice assieme alla moglie Rara, al piccolo figlioletto Luke. È un idillio però destinato a infrangersi in seguito all'arresto della moglie, accusata di omicidio. Elementi che portano gli inquirenti a condannarla all'ergastolo, nonostante lei sostenga la totale estraneità ai fatti. Le richieste del marito di revisione degli atti del processo finiscono nel vuoto e così, disperato, decide per un atto folle, pianificando la fuga di Lara, della moglie. Lo sceneggiatore di Clint Eastwood è regista di questo film, Paul Haggis, realizza un thriller che ha sicuramente lo spessore umano, il controllo dei sentimenti, gli attori sono di caratura, però insomma, rendere credibile che qualcuno che ha vissuto una vita sui libri abbia tempi di reazione da agente segreto è tutta un'altra cosa. Eccellente la qualità video per questa uscita di Medusa Film Home Entertainment, sia per il DVD che per il Blu-ray, soprattutto il Blu-ray da preferirsi per la qualità di insieme, che offre tra l'altro DTS alta risoluzione italiano e inglese. Tra gli extra segnalo su tutti il commento dei filmmaker e due approfondimenti sulla lavorazione. E invece uno specialista di commedia sentimentale come Edward Zwick, dietro Amore e altri rimedi. Ma che cazzata? Questa è una cazzata, va bene, sono Maggie, stanca Maggie. E mi sono rotta. Stanca di cosa? Ma Parkinson non è la mia vita, io ho il Parkinson, ok? Perché non posso vivere la mia vita invece d'accordo di vivere per trovare una tu cura? Non sai che quello che mi aspetta è già abbastanza brutto? Tu non vuoi stare meglio? No, lo vuoi tu, è diventato più importante di tutto per te. Ma di che stai parlando? Non vuoi stare meglio? Sì, disperatamente, ma non è possibile, d'accordo? Notizie flash, non c'è una cura. Sembra che tu debba sapere che potrò migliorare per amarmi. Questo è assurdo. Bella e complessa, Maggie è uno spirito libero che fugge da qualsiasi relazione stabile con l'altro sesso, anche quando si innamora di Jamie, giovane ambizioso e brillante, non riesce a guardare il futuro con positività a causa di una precoce malattia degenerativa. I veri sentimenti coglieranno entrambi impreparati, mettendoli a dura prova all'interno di una relazione sicuramente difficile. La romantica commedia agrodolce e con due magnifici interpreti come Anne Hathaway e Jack Gyllenhaal arriva su DVD e in alta definizione Blu-ray, sempre da Medusa Film Home Entertainment. Entrambi sono di notevole qualità, c'è questa traccia DTS alta risoluzione italiano e inglese per il Blu-ray. Tra gli extra segnalo le scene tagliate e quattro approfondimenti sulla lavorazione e sui personaggi. Facciamo un bel salto indietro, un viaggio in un genere che è quello bellico, con il generale del diavolo. Io sono un vecchio soldato e me ne intendo di cose del genere. Bisogna tenerci alla vita, amarla, desiderarla e difenderla fino alla fine, con i denti. Non ci pensi alla gioia di tornare dalla tua famiglia un giorno? Finirà questa guerra maledetta, no? Ho perduto i miei genitori da bambino, signor generale. La mia casa è stata il collegio e dopo l'accademia. Sta a sentire, Hartman. Tu sei giovane e non puoi sapere. Davanti a te c'è la vita che tu non conosci. Questo mondo è meraviglioso, ragazzo mio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Arras, generale dell'aviazione tedesca, va fiero della divisa del suo grado, ma molto meno del partito al potere del suo comandante in capo. Il coraggio di pensieri e azioni si infrangeranno contro la follia ideologica e i vanesi sogni di gloria, soprattutto di un collega delle SS che lo farà arrestare per piegarne la natura squisitamente patriottica, scarcerato. La scelta di Arras sarà tragica. Dal dramma teatrale di Karl Zuckmayer, un'opera altrettanto intensa e una delle più belle interpretazioni di Kurt Jürgens, appunto, nel ruolo di Arras. Da Koch Media, un DVD di ottima resa, nonostante la produzione risalga al 1955, c'è questa doppia traccia monofonica italiana in tedesco, soprattutto quella in tedesco da ascoltare, sono entrambe dignitose come extra, trailer e fotogallery. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. La prossima settimana, che sarà quella di Ferragosto, quindi come dire, cominciamo a fare un po' il giro di boa verso quello che è l'inizio alla chetichella della nuova stagione cinematografica. Noi ci risentiremo come sempre qui alla Rosa Purpura su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.